Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera ascolteremo qualche nota in più perché parleremo di libri sulla musica leggera italiana e ho usato un'espressione, musica leggera, che l'autore del primo libro che vi presenterò non ama, l'autore Luca Cerchiari, studioso di musica pop e docente all'Università IUM di Milano, dove anch'io ho qualche incarico, nonché autore di un libro dedicato alla grandissima protagonista della canzone italiana, cioè Mina, che quest'anno ha festeggiato gli 80 anni, una voce universale, e il sottotitolo del libro, intitolato appunto Mina, pubblicato da Mondadori, 450 pagine, 20 euro, l'amore non vi spaventi, perché 200 pagine sono dedicate alle note, soprattutto a uno strumento utilissimo, per gli appassionati soprattutto, e cioè la discografia di Mina, che è praticamente sterminata. Cerchiari, come dicevo, sottolinea come l'espressione musica leggera sia riduttiva rispetto all'importanza che la musica pop rappresenta, un'importanza di cui Mina è stata certamente una grande testimone, oltre che una delle icone principali della canzone italiana. Nel libro segue con grande precisione la carriera della cantante, studentessa svogliata ma artista precoce, capace di diventare in pochi anni una star riconosciuta in tutto il mondo e un personaggio anche televisivo che ha accompagnato la crescita e la trasformazione della società italiana a partire dagli anni 60. E di questi aspetti parliamo adesso con l'autore. Buonasera Luca Cerchiari. Buonasera. Luca Cerchiari, lei inserisce questo studio su Mina all'interno dell'esigenza che sottolinea di analizzare, di studiare la musica pop che è stata a lungo oggetto di sottovalutazione da parte degli studiosi. E qui lei lancia nelle prime pagine una stoccata micidiale a uno dei mostri sacri della cultura del Novecento, e cioè Theodor Adorno, autore, come lei scrive, di risibili sproloqui al riguardo. Perché? Ecco, allora lei mi stimola su due temi molto interessanti. Il primo è quello che io cerco anche di spiegare introduttivamente nei miei corsi all'Università di Ulm. Che cos'è la musica pop un tempo orribilmente definita leggera? Ora, il motivo per il quale, e questa è la prima domanda che lei mi ha fatto, la musica pop è stata oggetto di una certa sottovalutazione, è una mancata riflessione sull'oggetto. Che cos'è la musica pop? Allora, dal mio punto di vista, condiviso con colleghi internazionali, la musica pop non nasce nel Novecento o nella tarda epoca industriale di fine Ottocento, è sempre esistita. Anche l'opera è in parte musica pop, tutta la musica, compresa quella classica, può essere pop, cioè tra virgolette, molte virgolette, più leggera o più pesante. E l'esempio di Mozart, che è molto leggero da un certo punto di vista e molto pesante o volutamente tale nel Requiem, supponiamo, è calzante. Allora, il caso di Adorno, cerco di riassumerlo rapidamente. Adorno è stato un grande filosofo, sociologo, che si è anche occupato abbastanza discutibilmente, dal mio punto di vista, di musica, un intellettuale molto rispettato, di un'epoca che è un po' l'epoca della fine, il tramonto dell'Occidente, di cui ha cercato attraverso i suoi numerosi scritti di difendere la centralità. Adorno era un ebreo trasferito negli Stati Uniti che in ragione del suo ebraismo ha dovuto quindi subire una lunga epoca di esilio e di confine, scontrandosi con una cultura completamente diversa, cioè una cultura, quella statunitense, fortemente orientata in un senso popular, cioè nell'accezione anglosassone del termine, cioè non popolare come in italiano, ma di massa. Questo ha sviluppato in lui una credine che ha finito a riversare in errate analisi perché non disponeva di conoscenze sufficienti, cioè è facile pontificare su ciò che non si conosce. La scienza dimostra il contrario, si elaborano teorie a partire da una conoscenza e anche una continua messa in discussione dell'oggetto e delle teorie interpretative. Quindi Adorno ha sproloquiato, questo è il senso del mio attacco, che del resto è condiviso da una gran parte dei miei colleghi oggi, sulla musica pop e sul jazz di allora, senza conoscerlo, senza volersene documentare, e purtroppo è stato molto ascoltato in Italia, uno dei pochi paesi dove i suoi saggi sulla musica, attenzione, e io non parlo dell'Adorno filosofo o sociologo, ma i suoi contributi sulla musica, che sono una vera e propria ghigliottina della musica pop che lui peraltro non conosceva e che assimilava a un concetto molto generico di consumo e di, diciamo, di trivialità e di inferiorità, sono stati appunto recepiti in Italia, ma non in altri paesi, perché Adorno ha avuto una fortuna in Italia persino più che non in Germania o in Francia o in Inghilterra e anche negli Stati Uniti. Ecco, poi lei comincia qui un'analisi su tutta la carriera di Mina, la segue fin dai primi passi, e poi c'è questa canzone. Tintarella di luna, tintarella con un latte. Questa canzone che indica una prima svolta nella carriera di Mina, e Tintarella di luna, con la quale arriva anche il successo televisivo. Che cosa rappresenta questa prima fase dell'attività di Mina? A un certo punto lei dice che emerge una vocazione neoclassica, una Mina due volte addirittura. Allora, Tintarella di luna nasce nella prima fase, Mina ancora teenager, 18enne, 19enne. Mina viene da una nonna cantante lirica che ha tentato di trasformare anche la nipote senza riuscirci in una cantante d'opera. Di fatto invece Mina ascoltava in camera sua i dischi di rock and roll e di jazz, cioè Duke Ellington, Frank Sinatra, Count Basie, Elvis Presley, e ha aderito generazionalmente agli anni del rock and roll. Ecco quindi il suo esordio come urlatrice, cioè come cantante al femminile, molto originale in questo, perché era l'unica donna, una delle pochissime donne nel panorama internazionale con il rock and roll. Tintarella di luna rappresenta un punto di svolta perché è un rock moderato scritto dal chitarrista armonicista Bruno De Filippi, con un testo surreale brillantissimo, colpo di genio all'italiana, cioè questa presa in giro della moda che stava nascendo di abbronzarsi d'estate al mare. E quindi Migliacci scrive un testo surreale, divertente, leggero nel senso migliore, in cui attribuisce alla luna e non al sole il potere di irradiare raggi che però arrivano sopra il tetto dove ci sono i gatti e non appunto sulle spiagge. E l'adesione invece alla dimensione melodica all'italiana è la conseguenza del suo passaggio dai primi concerti, diciamo, di rock and roll, le prime esibizioni anche in televisione, alla grande platea della TV del sabato sera. Quindi l'esigenza di una televisione dell'epoca, che oggi potremmo definire o che è stata definita nazional popolare, che in realtà si preoccupava di, diciamo, educare il paese e di offrire tutto ciò che era possibile. Una televisione da questo punto di vista molto più aperta, più democratica e più pluralista, anche nell'offrire molta musica che oggi è scomparsa dalle reti televisive e non solo in Italia. E ancora più moderna è la canzone con la quale Mina partecipa al Festival di Sanremo del 1961. L'avete riconosciuta, Le mille bolle blu. Che passaggio rappresenta questa canzone nella carriera di Mina? Ma questo è un momento un po', se vogliamo, isolato, ma molto alto, a parte che è alto perché le bolle blu vanno verso il cielo, e quella era l'epoca anche delle scoperte della luna, delle scoperte dello spazio ancora. E a questo allude il testo delle mille bolle blu, che è un testo geniale nella sua leggera ispirazione, riferita anche a modelli della poesia francese contemporanea. La musica delle mille bolle blu è di Carlo Alberto Rossi, che sarà uno dei grandi autori, un grandissimo autore della canzone italiana, forse un po' dimenticato. L'arrangiamento molto frizzante, per certi versi anche un po' difficile nella sua modernità, è di Ennio Morricone. Le mille bolle blu era una canzone troppo brillante, troppo sperimentale e troppo anomala rispetto alla stereotipia sanremese per poter avere successo. Quindi non ebbe successo a Sanremo, ma lo ebbe nell'immaginario sonoro degli italiani. E lei ha accennato poco fa alla televisione, alla Rai, e sottolinea nel libro quanto sia stata importante nel successo di Mina, nell'affermazione del suo personaggio, la componente visiva, la sua gestualità, l'iconografia che seppe creare, possiamo dire anche la teatralità. Che cosa rappresentarono questi elementi? Questo è un altro punto essenziale, cioè Mina non è solo suono, non è solo voce universale, universale perché si è rivolta a tutto il mondo vendendo 200 milioni di copie di dischi e cantando in 9 lingue e 3 dialetti italiani. Mina è stata anche immagine. Allora, immagine in senso teatrale, perché la TV, come sappiamo, degli anni 50 è un po' figlia del lessico, del linguaggio del teatro. ma è stata teatrale anche nella sua capacità di muoversi, di gestire in modo molto originale, per quanto semplice e comprensibile, ma molto coordinato e sempre elegante, il corpo, attraverso i suoi movimenti, i movimenti di scena negli studi televisivi, e attraverso una gestualità che lei ha letteralmente inventato attraverso le braccia e i movimenti dei polsi e delle dita, creando una vera e propria semiotica del gesto quasi pedagogica, nel senso che la sua gestualità delle mani e delle dita sottolineava i momenti di sviluppo dei singoli brani musicali che lei cantava. In questo Mina è stata veramente straordinaria, e in tante altre cose straordinarie. Poi veniamo all'oggi, un oggi iniziato ormai in quest'ultima fase tanti anni fa, gli anni in cui, come lei la definisce, Mina è presente ma assente. Assente, sì, è presente ma assente perché, come sappiamo, Mina, di cui ricorre quest'anno l'80° compleanno, che è stato in marzo, si è ritirata molto giovane, nel 78, dalle scene, in un momento forse di ripensamento, di crisi, anche di crisi forse fisica o familiare. Ha fatto un passo molto coraggioso perché ha proprio smesso di cantare dal vivo, ma non si è ritirata dall'attività musicale, che ha continuato a perseverare sia come produttrice con la sua etichetta discografica PDU, sia come cantante. E la riprova della longevità e della continuità, diciamo, della sua esperienza sonora e non visiva, quindi una presenza nel suono ma un'assenza nel video, è il successo che l'ha accompagnata e il pubblico che l'ha sempre seguito, un pubblico tra l'altro intergenerazionale. Mina piace ai ragazzi di 10 anni come agli 80enni, anche questo è un elemento molto raro che forse ne ha preservato anche la longevità, perché ancora oggi possiamo ascoltare nelle pubblicità televisive i sovracuti straordinari di Brava, che è la canzone che utilizzata per una campagna attuale della pubblicità. Grazie a Luca Cerchiari, autore di Mina, una voce universale. Buona serata. Buona serata a voi. Un grande protagonista della scena musicale proprio negli anni di Mina, anch'egli cantante, uomo televisivo, uomo di spettacolo a tutto tondo, è Johnny Dorelli, presente anche nel libro di Cerchiari. E Johnny Dorelli con Pierluigi Vercesi, inviato al Corriere della Sera, pubblica Che fantastica vita, Mondadori, 142 pagine, 18 euro. Il libro di Johnny Dorelli e la sua avventura partono da New York, dove la famiglia aveva raggiunto il padre che vi era emigrato dopo la guerra, seguendo la sua vocazione artistica. Lì aveva assunto un nome d'arte, Nino D'Aurelio, che gli americani non riuscivano a pronunciare bene, al massimo riuscivano a dire Giorelli, e così nacque il nome d'arte di Johnny, nato Giorgio Domenico Guidi. Dopo varie vicissitudini, Dorelli comincia a lavorare nel mondo dello spettacolo, sempre negli Stati Uniti, stravince una importante gara di canto a 13 anni e da lì inizia una carriera fatta di apparizioni televisive e serate con l'orchestrina dei liceali. Nel 1955 il ritorno in Italia e la carriera di grande successo nel nostro paese, inaugurato dal trionfo a Sanremo nel 1958 di questa canzone entrata nella leggenda. Volare, cantare, Dorelli deciderà poco dopo di affrancarsi dal destino che gli sembrava ormai cucito addosso, di dover fare il gregario di Modugno, col quale aveva trionfato a Sanremo, e diventò popolarissimo con un'altra canzone, Lettera a Pinocchio, e da lì una carriera sempre più fortunata, chiusa nel 2007, al termine della quale Dorelli riconosce di essere stato appunto un ragazzo fortunato, perché nemmeno io avrei scommesso un centesimo sul mio successo, perché ho sempre trovato la forza di rialzarmi quando cadevo, di non gettare la spugna se i critici mi liquidavano come un dilettante, di non farmi travolgere dalle pressioni che giungevano da molte parti e sembravano in certi momenti sopraffarmi. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti. Il microfono dello smartwatch sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi. La gente, se ha a disposizione un giga, lo usa tutto. Se ne ha due, lo usa tutto. E già non bastano. Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio. Beh, Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di altri due mostri sacri della musica pop italiana. E cominciamo da... L'ultima luna, la vita sono un bimbo appena nato. Lucio Dalla, naturalmente, questa canzone che avete ascoltato è il frutto di un forte rapporto che Dalla ebbe con il cinema. L'ultima luna, in particolare, fu ispirata dalla forte emozione determinata dal film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Ce lo ricorda Salvatore Coccoluto, scrittore, saggista e critico musicale, nel libro Lucio Dalla, la vita, le canzoni e le passioni, pubblicato da The Arcos, 222 pagine, 15 euro, che è intervallato da testimonianze di Fabrizio Zampa, Giorgio Leccardi, Nino Campisi, Stefano Ligi, Ricky Portera, Marco Ferradini, Bruno Mariani, Pier Davide Carone, Giovanni Gulino e Alessandra Nicita. Tutti insieme danno vita a un ritratto a più voci, intenso e partecipe della grande personalità di Lucio Dalla, dagli inizi di carriera non sempre felicissimi, che cominciò poi ad avviarsi dopo che il cantante cominciò a farsi conoscere nei locali con gli Idoli, un gruppo della sua Bologna, il cui batterista ricorda anche egli qui Dalla. E un episodio della carriera di Lucio Dalla, raccontato nel libro, ci collega all'altro grande protagonista della musica italiana di cui vi parlerò, cioè Francesco De Gregori. Nel 76, infatti, a De Gregori capitò di essere violentemente contestato a Milano in un concerto, accusato di essere di sinistra solo a parole perché si faceva pagare. Un episodio che colpì molto il cantante, che annullò il tour e sparì dalle scene per più di un anno. Fu Dalla a richiamarlo sulle scene con Banana Republic, che coronò un'amicizia tra i due, e De Gregori trovò, scrive Coccoluto, nuovi stimoli in quell'estroso folletto bolognese, che definisce nelle prime righe del libro di Coccoluto con queste parole: un musicista travolgente, sconvolgente, imprevedibile, innovativo, personale. Di De Gregori esce un volume importante, cioè I testi, la storia delle canzoni, curato da Enrico De Regibus, giornalista musicale, consulente o direttore artistico di Rassegne Musicali, pubblicato da Giunti, 720 pagine, 28 euro. De Regibus aveva già pubblicato una biografia di De Gregori e compie qui un'opera certosina, raccolto infatti, come spiega egli stesso, tutte le canzoni incise in album ufficiale a suo nome a partire dal 1972, cioè dal primo. Non ci sono le canzoni non pubblicate in prima persona, per esempio perché scritte per altri o cantate in dischi di altri, e i pezzi cantati da De Gregori ma scritti appunto da altri cantanti. E De Gregori ha lasciato massima libertà a De Regibus di accompagnare con le sue parole i testi, verificandoli però personalmente, questi testi, che spesso sono ancora diffusi con errori e storpiature. È un lavoro fondamentale perché De Gregori, come ci ricorda De Regibus, è uno degli autori italiani che meglio scrive, ha saputo impastare insieme tre elementi, renderli vasi comunicanti, e cioè il testo, la musica e l'interpretazione. E a ogni brano De Regibus aggiunge una breve nota con brevi commenti, suggestioni, aneddoti. Un esempio significativo sono per esempio le pagine che presentano questa canzone, anch'essa celeberrima. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. De Regibus spiega l'origine e il significato di Viva l'Italia e ricorda che questa è una canzone di resurrezione, una carrellata di valzere di caffè, di giornale di cemento, di giardino di galera, e parla dell'Italia tutta intera, perché l'amore vale per i pregi e per i difetti, per i momenti felici e per quelli drammatici. Poi cita, sempre a proposito di questa canzone, la storia dei tentativi della politica di impossessarsi di questa canzone, sia da destra che da sinistra, di un certo distacco che a un certo punto De Gregori dimostrerà nei confronti della sua creatura, della stessa canzone, e poi della ripresa convinta in tutti i concerti, motivata, come spiega in un'intervista ad Aldo Cazzullo, dalla qualità dell'aspetto musicale, l'andamento campagnolo, scrive l'autore, che evoca la musica popolare italiana, il melodramma, il tre quarti verdiano. E a questo punto... Il confettino. Supponiamo che quindi due mostri sacri, in questo caso della letteratura per bambini e per ragazzi, il primo è Gianni Rodari, di cui venerdì cade il centenario della nascita, che avvenne a Omegna. Di Rodari, grande scrittore per giovani e adulti, abbiamo già avuto modo di parlare nei mesi scorsi, vi segnalo ora la guida all'opera di Gianni Rodari di Pino Boero, che è un esperto di letteratura per l'infanzia, docente all'Università di Genova, che esce in edizione aggiornata per Einaudi, 290 pagine, 14 euro. Questo è un libro non certo per bambini, trattandosi di un'importante opera critica sul grande scrittore, sulle sue forme espressive, filastrocche, romanzi, teatro, e sul suo impegno da giornalista e operatore culturale, oltre che sull'influenza esercitata. I lettori più giovani potranno accostarsi a Rodari con alcuni titoli recentemente ripubblicati. Da M Edizione, La casa del signor Venceslao, illustrato da Anna Laura Cantone, 5,90 euro, 24 pagine, e L'orso pescatore, illustrato da Mirella Mariani, 24 pagine, 5,90 euro. Da Einaudi Ragazzi, Codice Rodari, 64 pagine, 18 euro, che esprime la strabiliante capacità dell'autore di esprimersi con parole e disegni, e I sepolti vivi, illustrato da Silvia Rocchi, 96 pagine, 14 euro, che è una prova giornalistica del 1952 di Rodari, che descrive il drammatico incidente in una grande miniera di zolfo presso Ancona. L'altro grande autore è Pininkarpi, grande amico di Rodari, di cui pure quest'anno è caduto a luglio il centenario della nascita, che ai bambini dedicò in particolare una serie di libri per far loro conoscere grandi artisti. Di Pininkarpi esce ora, con il Battella Vapore, La rivolta dei bambini di Mantova, illustrato da Alessandro Sanna, 190 pagine, 16,50 euro. Questo romanzo fu scritto in occasione della prima edizione del Festival di Mantova ed era rimasto inedito. Esso era nato infatti come un testo raccontate ai bambini, e qui un gruppo di ragazzi coraggiosi restituiranno la libertà alla loro città, a Mantova, che rischia di essere devastata dagli invasori, i nomadi neri. Prima di salutarci, ricordo ai lettori adulti un'altra ricorrenza che riguarda un evento che ha contribuito a cambiare molto la società italiana, cioè la riforma agraria, che ridusse o eliminò in certi casi il latifondo grazie a un'intensa attività legislativa culminata nella cosiddetta legge stralcio, che venne approvata il 21 ottobre del 1950. Ci parla dell'intera attività che portò a questa riforma importante Nunzio Primavera, giornalista esperto di temi sindacali e agroalimentari, in La terra restituita ai contadini, la più grande redistribuzione di ricchezza mai avvenuta in Italia. Laurana Editore, 336 pagine, 19 euro. Vincenzo Gesmundo, il presidente della Coldiretti, spiega nell'introduzione il significato storico che quella riforma rivestì e che fece nascere una nuova figura sociale, quella del coltivatore diretto, che diventava proprietario dei terreni che gli venivano assegnati. Primavera fa la storia della politiche agrarie seguite dall'Italia postunitaria e la nascita del dibattito sulle esigenze di una riforma agraria, e poi l'accelerazione dopo la Seconda Guerra Mondiale e la fine del fascismo, di cui furono protagonisti Fausto Gullo del Partito Comunista, ministro dell'agricoltura nei governi fra il 44 e il 46, e poi soprattutto Antonio Segni. Il primo, Gullo, avviò la riforma con misure magari insufficienti ma certamente di grande rottura per l'epoca. Il secondo assecondò, per così dire, la linea riformatrice che la Democrazia Cristiana aveva indicato per quanto riguarda le materie agricole nel cosiddetto codice di Camaldoli, che diede vita a un grande dibattito del quale furono protagonisti anche Alcide De Gasperi e Don Sturzo, che era contrario alla riforma del 50 perché la considerava troppo acquiescente alle sinistre. Di riforma agraria naturalmente si sarebbe parlato alla Costituente, grazie soprattutto a Paolo Bonomi, tra l'altro protagonista del dibattito sull'articolo 44 della Costituzione, sul quale interverranno tre futuri presidenti della Repubblica, cioè Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi e lo stesso Antonio Segni. E poi appunto Antonio Segni, come ministro dell'agricoltura nei governi De Gasperi, porterà a compimento la riforma avvenuta 70 anni fa, di cui qua ci vengono ricordati i contenuti. La riforma fu attivata attraverso una legge del maggio del 1950 sulla Calabria, detta legge Sila, poi con la legge Stralcio, quella di ottobre, e completata da una legge regionale della regione Sicilia del dicembre 50, leggi che, scrive l'autore, assestarono un colpo mortale a chi detiene immense estensioni di terra agricola incolta. Quelle terre furono espropriate e ridistribuite per creare una nuova classe di piccoli agricoltori e per stimolare un'agricoltura moderna, intensiva e meccanizzata, ricorda l'autore. Soltanto queste tre leggi riguardarono 800.000 ettari e terreni assegnati a oltre 120.000 famiglie. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro chiocciola 24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.